di Laura Ingalls, Piccola città del West, quinto romanzo della serie La casa nella prateria, traduzione dall'inglese di Paola Mazzarelli. Sorpresa. Ti piacerebbe lavorare in paese, Laura? Chiese papà una sera a cena. Laura fu così sorpresa da non riuscire a spiccicare parola. Anche mamma e le sorelle erano rimaste di sasso. Gli occhioni azzurri di Grace sbirciavano spaventati da sopra il bordo della tazza. Carrie era rimasta con i denti nella fetta di pane che stava addentando, Mary con la forchetta a mezz'aria. Mamma stava versando il tè nella tazza di papà e per poco non lo rovesciò tutto. Mise giù la teiera appena in tempo. Ma che dici, Charles? Ho chiesto a Laura se le piacerebbe lavorare in paese, disse papà. Lavorare? Una ragazza in paese? Esclamò mamma. Ma che razza di lavoro? Poi aggiunse subito: No, Charles, non la lascio andare a lavorare in un albergo in mezzo a tutti quegli estranei. Chi ha mai detto una cosa del genere? Esclamò papà. Una nostra figlia non farà mai un lavoro simile, non finché campo io. No, certo che no, disse mamma come a scusarsi. A che mi hai colta di sorpresa? Ma che altro lavoro ci può essere in paese? Laura non è ancora abbastanza grande per insegnare a scuola. In un istante prima che papà cominciasse a spiegare che cosa aveva in mente, Laura pensò al paese che ormai stava diventando una piccola città e alla fattoria nella loro concessione dove erano tornati a vivere ora che era arrivata la primavera. C'erano tante cose da fare lì e in casa erano sempre così allegre, così felici di stare in campagna e no, no, lei non voleva che nulla cambiasse, no, non voleva andare a lavorare in paese. Primavera alla fattoria. L'autunno precedente, dopo la prima grande bufera di ottobre, si erano trasferiti in paese e Laura per qualche tempo era andata a scuola. Poi la scuola era stata chiusa per il maltempo e per tutto l'inverno violente bufere avevano isolato le case. Per giorni e giorni e notti non si era sentita una sola voce fuori, non si era visto un solo lume nel turbinio della neve. Per tutto l'inverno avevano vissuto chiusi nell'angusta cucina, combattendo il gelo e la fame, lavorando al buio e al freddo, facendo tronchetti di fieno da bruciare nella stufa per scaldarsi e macinando frumento nel macinino da caffè per avere un po' di pane da mangiare. Per tutto quel lungo, lunghissimo inverno, l'unica speranza era stata che prima o poi il maltempo finisse, che prima o poi le bufere cessassero e il sole tornasse a splendere, e allora loro sarebbero finalmente tornate nella fattoria, sul terreno che avevano in concessione. Ora era primavera. La prateria del Dakota era così verde e calda e piena di sole che pareva impossibile fosse stata per mesi un'unica distesa di neve sferzata dal vento. Com'era bello essere di nuovo laggiù. Laura non desiderava altro che stare all'aria aperta. Le sembrava di non averne mai abbastanza di scaldarsi le ossa al sole. All'alba, quando andava a riempire il secchio dell'acqua al pozzo ai margini della palude, vedeva il sole sorgere in un trionfo di luci e colori. Le stornelle cantavano levandosi in volo dall'erba umida di rugiada. Saltellando qua e là intorno al sentiero, i leprotti con gli occhietti scintillanti e le lunghe orecchie frementi facevano colazione con gli steli più teneri e succosi. Laura tornava a casa solo per posare il secchio dell'acqua, prendere quello del latte e correre giù al prato dove Ellen, la vacca, si abbuffava di erba novella. Ma quando lei la mungeva, Ellen se ne stava buona buona, a ruminare placidamente. I fiotti schiumavano nel secchio e l'odore dolce e tiepido del latte appena monto si mescolava con tutti gli altri profumi della primavera. I piedi scalzi di Laura sentivano il fresco e l'umido della rugiada, ma il sole era caldo sulla nuca e anche il fianco di Ellen era caldo e morbido quando lei ci appoggiava contro la guancia. Legato al suo picchetto, poco più in là, il vitellino chiamava la mamma spaventato. Ellen gli rispondeva con un placido muggito. Quando anche le ultime dense gocce di latte erano cadute nel secchio, Laura tornava a casa. Mamma metteva da parte un po' di latte per il vitello, poi filtrava il resto con un panno pulito, lo versava nelle teglie di stagno e Laura le portava in cantina. Poi scremavano il latte avanzato dal giorno prima, lo aggiungevano a quello per il vitello e Laura tornava giù al prato. Il vitello aveva una gran fame, ma insegnargli a bere non era facile. Era ancora piccolo e traballante sulle zampe e non sapeva come fare. Era venuto al mondo convinto che per avere da mangiare si debba picchiare con la testa, sicché appena sentiva l'odore del latte cercava di prendere il secchio a testate. Laura doveva stare attenta che non glielo rovesciasse. Prima o poi bisognava che imparasse a bere da solo. Intingeva un dito nel latte e glielo dava da succhiare. Il vitello le leccava il dito con la lingua, calda e ruvida. Poi lei gli spingeva gentilmente il muso verso il secchio e tutt'a un tratto lui tirava su col naso, starnutiva, spruzzava latte dappertutto e con tutte le sue forze dava una gran testata al secchio. Poco mancava che glielo facesse cadere in mano. Un'ondata di latte gli finiva sul muso e schizzava il grembiule di Laura. Con pazienza lei ricominciava tutto da capo, intingeva il dito, lo dava al vitello da succhiare, gli spingeva la testa verso il secchio. Dopo vari tentativi c'era latte dappertutto, ma ne era finito anche un po' nello stomaco del vitello. Poi Laura spostava i picchetti a cui erano legati Ellen, il vitellino appena nato, e la vitella nata l'anno precedente, in modo che avessero erba fresca a volontà. Erano robusti, picchetti di ferro, e bisognava picchiare forte per infilarli in profondità nel terreno. Ormai il sole era alto, il cielo era tutto azzurro e la terra era un'unica distesa di erba verde ondeggiante nel vento. Da casa giungeva la voce di mamma. Laura, spicciati, è ora di colazione. In casa Laura si lavava in fretta faccia e mani nel catino, poi buttava fuori l'acqua sporca. Una mezzaluna di goccioline scintillanti atterrava nell'erba. Presto il sole l'avrebbe asciugata. Si passava il pettine tra i capelli, sulla testa, fin dove riusciva ad arrivare senza sciogliere la treccia già mezza sfatta. Prima di colazione non aveva mai tempo per spazzolarli a dovere e rifare la lunga treccia per bene. Aspettava di aver finito le faccende. Andava a sedersi al suo posto accanto a Mary. Gli altri erano già tutti lì, intorno alla tavola apparecchiata con la tovaglia a quadri bianchi e rossi e piatti lucenti. Laura guardava Carrie e la piccola Grace, il loro visetto lindo, gli occhi ridenti, e papà e mamma sempre così allegri e sereni. Dalla finestra entrava l'aria fresca e profumata del mattino e lei sospirava felice. Papà la guardava. Sì, si sta proprio bene, lo penso anch'io, diceva sempre perché le leggeva nel pensiero. È proprio una bella mattinata, aggiungeva mamma. Dopo colazione, papà andava a prendere Sam e David, i loro due cavalli da tiro, e li portava nella prateria a est della casa dove aveva cominciato ad arare per piantare il gran turco da seme. A quel punto, mamma assegnava i lavori di casa a ciascuna di loro. Le giornate che a Laura piacevano di più erano quelle in cui diceva: "Oggi c'è da fare nell'orto". Mary si offriva subito di occuparsi delle faccende di casa perché Laura potesse aiutare mamma fuori. Mary era cieca, ma già prima che la scarlattina spegnesse definitivamente la vista nei suoi begli occhi azzurri, non le era mai piaciuto lavorare all'aperto, sotto il sole e nel vento. E ora che non ci vedeva più, era contenta di rendersi utile in casa. Diceva: "Devo stare dove posso vedere con le dita. Fuori a zappare non potrei distinguere i viticci dei piselli dalle erbacce, ma in casa posso lavare i piatti, rifare i letti, badare a Grace". Carrie aiutava Mary. Era molto orgogliosa del fatto che, sebbene fosse piccola, perché aveva solo 10 anni, sapesse già fare tante cose e rendersi utile. Così mamma e Laura potevano dedicarsi all'orto. Dall'est continuava ad arrivare gente che veniva a stabilirsi da quelle parti, ovunque nella prateria, a est, a sud e anche a ovest, al di là della grande palude di Big Slough, sorgevano le baracche dei nuovi coloni che avevano preso appezzamenti di terra in concessione. Ogni tanto, nella strettoia della palude dove correva la carreccia che portava in paese, passava un carro guidato da sconosciuti. Mamma diceva che avrebbero fatto conoscenza più in là. Non c'è tempo per far visita ai vicini in primavera. Papà aveva un aratro nuovo, era perfetto per dissodare il terreno vergine della prateria. Aveva un disco dal bordo tagliente che ruotando tagliava la zolla davanti al vomere. Subito dopo la lama di acciaio del vomere si infilava sotto la zolla e tagliava in orizzontale il groviglio di radici. Poi Il versoio sollevava la zolla tagliata e la rovesciava di lato. Le zolle erano tutte uguali, larghe una spanna abbondante e coi bordi così netti che sembravano tagliate a mano. Erano tutti felici di quell'aratro nuovo. Ora, dopo una giornata di lavoro, Sam e David si buttavano a terra e si rotolavano allegramente nell'erba. Poi si tiravano su, aguzzavano le orecchie, si guardavano intorno e si mettevano a pascolare beati. A differenza dell'anno prima, nonostante tutto il lavoro che facevano, non erano affaticati e smagriti. E la sera papà non era mai troppo stanco e aveva ancora voglia di scherzare. «Che aratro!» diceva. «Si direbbe che lavori da solo. Già con tutte queste invenzioni moderne, oggi non servono più i muscoli. Una di queste sere vedrete, quell'aratro deciderà di continuare ad arare per conto suo. Ci sveglieremo una mattina che avrà finito tutto il campo mentre noi dormivamo». Le zolle se ne stavano pancia all'aria con tutte le radici fuori. I solchi erano freschi e morbidi. Era bellissimo camminarci dentro a piedi nudi. E spesso Carrie e Grace si mettevano a giocare dietro l'aratro. Anche a Laura sarebbe piaciuto giocare con loro, ma ormai aveva quasi 15 anni. Era troppo grande per razzolare come i bambini nella terra smossa e profumata dei campi. E poi il pomeriggio doveva portare Mary a fare una passeggiata perché prendesse un po' d'aria anche lei. Finite le faccende di casa, andavano a spasso insieme nella prateria piena di fiori. Ogni tanto, sull'erba, passava in corsa l'ombra di una nuvola portata dal vento. Sembrava strano che un tempo, quando erano piccole, Mary facesse sempre la sorella maggiore e cercasse di comandare, perché ora che erano cresciute, sembrava avessero la stessa età. Piacevano a tutte e due quelle lunghe passeggiate nel vento e nel sole, a raccogliere viole e botton d'oro e a masticare gli steli della cetosella. I suoi graziosi fiorellini color lavanda, le lunghe foglie, gli esili gambi avevano un gusto acidulo e fresco. «La cetosella ha il sapore della primavera», diceva Laura. «A essere precisi sa un po' di limone», ribatteva Mary. Prima di mettersi in bocca uno stelo chiedeva sempre: «Hai guardato bene? Sicura che non ci sono insetti?» «Non ce n'è di insetti», diceva Laura. «La prateria è pulita. È il posto più pulito che c'è». «Comunque, guarda bene lo stesso. Non voglio essere io a mangiare l'unico insetto del Dakota». Allora si mettevano a ridere. Mary era sempre così lieta e di buon umore. Non avresti mai detto che quel viso così sereno sotto la cuffia, quegli occhi azzurri così limpidi, quella voce così gaia vivessero nel buio perenne. Mary era sempre stata buona, così buona a volte da far venire il nervoso a Laura. Ora però sembrava cambiata. Un giorno Laura glielo aveva detto. «Una volta cercavi in tutti i modi di essere buona, ed eri buona, è vero, però mi davi sui nervi. Avrei voluto prenderti a schiaffi. Ora invece sei buona senza nemmeno darlo a vedere». Mary si fermò. «Oh, Laura, ma che brutta cosa! Ti capita ancora di volermi prendere a schiaffi?» «No, mai!» disse Laura, ed era vero. «Sul serio? Non lo dici solo per essere gentile con me perché sono cieca?» «No, davvero, dico sul serio. Non ci penso mai al fatto che sei cieca. Sono contenta che sei mia sorella e basta. E vorrei tanto essere come te, ma non credo che ci riuscirò mai», disse Laura con un sospiro. «Non so come fai a essere così buona». «Oh, non sono molto buona», disse Mary. «Ci provo, questo sì, ma tu sapessi come sono piena di ribellione e di cattiveria a volte. Se tu sapessi come sono dentro, non vorresti essere come me». «Ma io lo so come sei dentro», disse Laura. «Si vede. Sei sempre paziente e non dici mai cattiverie». «Lo so perché a volte avresti voluto prendermi a schiaffi», disse Mary, «perché facevo finta. Non volevo davvero essere buona. Lo facevo solo per mostra, per vanità e orgoglio, e gli schiaffi me li sarei meritati davvero». Laura restò esterrefatta. Poi di colpo le parve di capire cosa intendeva dire Mary. «Ma non era vero. No», disse, «non sei così. Tu sei buona e questo è quanto». «Ah, siamo tutti tremendamente malvagi e portati a fare il male, come le scintille del fuoco sono portate a salire verso l'alto», disse Mary citando parole della Bibbia. «Ma questo non ha importanza». Come? Esclamò Laura. Voglio dire, a me sembra che non si debba stare troppo a pensare a se stessi, se siamo buoni o cattivi. Ma, oh, uffa, come si fa a essere buoni senza pensarci? Esclamò Laura. Non so, forse non si può, hai ragione, riconobbe Mary. Non so spiegarlo, ma non è questione di pensare, quanto piuttosto di saperlo da dentro, di essere sicuri della bontà di Dio. Laura se ne stava lì impalata, e anche Mary, perché non osava muoversi se Laura non la teneva a braccetto per guidarla. Era lì, in mezzo a quella distesa verde e fiorita che ondeggiava nel vento col cielo azzurro e le nuvole bianche che ci veleggiavano in mezzo, e non vedeva nulla. Sì, lo sanno tutti che Dio è buono, ma a Laura pareva che Mary dovesse saperlo in un modo diverso, speciale. Tu ne sei certa, vero? Sì, è una certezza che adesso ho sempre, rispose Mary. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sui pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. È il più bello dei salmi. Ma perché ci siamo fermate qui? Non sento il profumo delle viole. Oh, parlando abbiamo passato la conca dei bufali, disse Laura. Ora, tornando, ci fermiamo. Quando si voltarono per tornare indietro, Laura si guardò intorno. Da laggiù si vedeva la collinetta, al margine della palude, dove era la loro casa. Vista da lì, col suo tetto a uno spiovente solo, sembrava poco più grande di un pollaio. La stalla, poi, quasi non si scorgeva in mezzo all'erba. Dietro la casa e la stalla pascolavano Ellen e i due vitelli. Più in là, verso est, papà stava piantando il gran turco nel campo, dissodato di fresco. Aveva dissodato tutto il terreno che aveva potuto, lavorando indefessamente prima che il sole e il vento lo asciugassero troppo. Il campo dissodato l'anno precedente lo aveva lavorato con l'erpice e ci aveva seminato l'avena. Ora, con la zappa in mano e un sacco di gran turco legato al basto che portava sulla schiena, andava passo passo lungo i solchi del campo nuovo. Papà sta piantando il gran turco, disse Laura a Mary. Passiamo di là. Ecco, ora siamo alla conca dei bufali. Sì, lo so, disse Mary. Si fermarono un momento a respirare a pieni polmoni il profumo di viole calde di sole che saliva denso come miele dal fondo della conca. La conca dei bufali era un avvallamento perfettamente rotondo, con le scarpate quasi verticali, alte 1 metro e più. Il fondo era letteralmente tappezzato di viole fiorite. Ce n'erano migliaia, milioni, così fitte che non si vedevano nemmeno le foglie. Mary ci si buttò a sedere in mezzo. Che meraviglia! Mormorò estasiata. Le sue dita sfioravano con delicatezza il tappeto di corolle e scendevano lungo i gambi sottili per raccogliere i fiori dal basso. Quando passarono dal campo dissodato, anche papà volle annusare il mazzo di viole. Avete fatto una bella passeggiata, ragazze? Chiese con un sorriso, senza smettere di lavorare. Zappettava un quadratino di terreno, ci scavava una conchetta, ci metteva dentro 4 chicchi di gran turco, li ricopriva di terra con la zappa, ci premeva sopra ben bene con la scarpa, si spostava di un passo e ricominciava da capo. Arrivò Carrie di corsa perché voleva annusare le viole anche lei. Aveva il compito di badare a Grace e Grace voleva stare solo nel campo dove lavorava papà. Era affascinata dai lombrichi, stava a guardare se la zappa ne portava uno alla luce e rideva contenta quando vedeva il verme lungo e sottile farsi corto corto e grasso e infilarsi di nuovo sottoterra. Anche se lo tagli, tutte e due le metà fanno così. Perché, papà? E forse vogliono stare sottoterra, disse papà. Perché? Chiese Grace. Perché gli piace così, disse papà. Sì, ma perché? E tu perché vuoi giocare nella terra? Perché? Disse Grace. Quanti grani metti nel buco? Chicchi, disse papà. 4 chicchi. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 4, disse Grace. Perché? Questa è una domanda facile, disse papà. Uno il merlo lo becchetta, l'altro il corvo lo porta via, così qui ne crescono due che noi mangeremo in allegria. Anche nell'orto si cominciavano a vedere i segni del futuro raccolto. In esili file di tanti verdi diversi cominciavano a spuntare rapanelli, insalate e cipolle. Stavano uscendo anche le prime foglioline dei piselli, ancora tutte spiegazzate. E anche le piantine dei pomodori cominciavano a mettere le prime foglie. Ho dato un'occhiata all'orto, disse mamma, mentre Laura metteva il mazzo di violi in un vaso con l'acqua. Ha bisogno di essere zappettato un po' e ormai fa caldo. Tra non molto spunteranno anche i fagioli. Ed ecco, un mattino di sole, i fagioli far capolino da sottoterra tutti insieme. Fu Grace a vederli per prima. Piombò in casa di corsa, strillando. Quel giorno non riuscirono a farla muovere di lì. I fagioli saltavano fuori dalla terra nuda, lo stelo tutto arrotolato si stendeva come una piccola molla, con le due metà del fagiolo ancora attaccate alle due pallide foglioline gemelle. Ogni volta che ne veniva fuori uno, Grace lanciava uno strillo di gioia. Quando ebbe finito di seminare il gran turco, papà costruì l'altra metà della casa. Un mattino mise giù il perimetro del pavimento. Poi costruì l'ossatura delle pareti e Laura lo aiutò a rizzarla in piedi e a verificare che fosse perfettamente verticale con il filo a piombo. Poi la tenne ferma mentre lui la inchiodava al suo posto. Poi papà ci inserì dentro i montanti e il riquadro di due finestre, dopodiché pose le travi per costruire l'altro spiovente del tetto, quello che ancora non c'era. Laura lo aiutava. Grace e Carrie stavano lì a guardare. Avevano il compito di raccogliere tutti i chiodi che papà lasciava cadere per sbaglio. Ogni tanto anche mamma veniva a dare un'occhiata. Era bello vedere la loro baracca diventare una casa vera. Quando fu finita, ebbero tre stanze. La parte nuova era costituita da due minuscole camere da letto, ognuna con la sua finestrella. Ora potevano togliere i letti dall'altra stanza. Così prendiamo due piccioni con una fava, disse mamma. Faremo il trasloco e le pulizie di primavera tutto in una volta. Lavarono le tende delle finestre e le trapunte dei letti e le stesero fuori ad asciugare. Poi lavarono i vetri fino a farli luccicare e ci appesero davanti le tendine nuove che avevano ricavato da vecchie lenzuola e a cui Mary aveva fatto l'orlo coi suoi bei punti piccoli e tutti uguali. Mamma e Laura montarono i letti nelle due camere che sapevano di legno nuovo e di pulito. Laura e Carrie riempirono i pagliericci col fieno preso dal centro di un covone e fecero i letti con lenzuola ancora calde di ferro da stiro e trapunte pulite che profumavano di prateria. Poi mamma e Laura pulirono a fondo ogni angolino della casa vecchia che ora senza i letti era diventata molto più spaziosa. C'erano rimasti solo la cucina economica, gli armadietti, il tavolo e le sedie e l'angoliera. Quando ebbero finito e ogni cosa fu al suo posto, si guardarono intorno soddisfatte. Non c'è bisogno che tu la veda per me, Laura, disse Mary. Lo sento che è grande, è fresca e accogliente. Le tende lavate e inamidate ondeggiavano lievi alla brezza che entrava dalla finestra aperta. Pareti e pavimento, ben grattati e lavati, avevano acquistato un tenue colore giallo-grigio. Sul tavolo, nella ciotola azzurra c'era un mazzo di erbe e di fiori di campo raccolti da Carrie. Portavano dentro la primavera e in un angolo troneggiava, con i suoi lucidi ripiani marroni, la loro bella angoliera. La luce del pomeriggio faceva brillare le lettere d'oro sul dorso dei libri allineati sul ripiano più basso e scintillava sulle tre scatolette di vetro dipinte a fiori, disposte sul terzo ripiano. Sul secondo stava l'orologio, con il suo vetro istoriato a fiori d'oro e il lucente pendolo di ottone che oscillava di qui e di là. E ancora più in alto, sul primo ripiano, il più piccolo, c'era la scatoletta di porcellana di Laura, con la sua minuscola tazzina da tè sul coperchio. E lì accanto era seduto il cagnolino di ceramica bianco e marrone di Carrie. Sulla parete, tra le porte delle due stanze nuove, mamma aveva appeso lo scaffalino di legno intagliato che papà le aveva regalato un Natale di tanti anni prima, quando abitavano ancora nei grandi boschi del Wisconsin. tutti i fiori e le foglioline e i vitici che ornavano il bordo, e anche quelli che si arrampicavano su fino alla grande stella che lo sovrastava in cima, erano ancora intatti e perfetti, come se papà avesse appena finito di intagliarli. E di lassù li guardava sorridendo, con il suo visino bianco e rosa, la pastorella di porcellana di mamma, che era in casa da molto prima che papà le costruisse lo scaffalino a nicchia in cui stava. Laura non ricordava neanche da quando. Sì, era proprio una bella stanza.